Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Secondo appuntamento settimanale con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, ritroviamo il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. Dunque, tema caldo che è quello dell'evasione, uno dei mali italiani che in qualche modo, in tutti i modi, si cerca di combattere, forse non abbastanza. Sì, forse non abbastanza, come hai detto te, è un male che affligge molto gli italiani, perché purtroppo sappiamo benissimo che in Italia l'evasione è ancora alta e certamente se tutti pagassimo le tasse, forse, dico forse, potremmo pagarne tutti un po' meno. E certamente i dati dell'attività svolta dalle Fiamme Gialle nel 2012 ci fanno capire che comunque i valori in termini assoluti in Italia sono ancora molto significativi. Ecco, facciamo i numeri perché poi così si riesce a dare la dimensione del fenomeno. Sì, i dati scoperti, come detto, aggiornati al 2012 sono, per quanto riguarda appunto il lavoro svolto dalle Fiamme Gialle, praticamente 8.617 evasori totali, quindi 8.617 certamente non sono pochi, che hanno occultato al fisco 22,7 miliardi di euro. Certo, parliamo di miliardi di euro, quindi se facciamo un parametro, quello che su un miliardo ci ricordiamo che sono circa 2.000 miliardi di vecchie lire, ci rendiamo conto che è una cifra esorbitante. E questa è un po' l'attività che hanno annunciato in una conferenza stampa le Fiamme Gialle, di cui certamente c'è molto da riflettere, anche perché siamo convinti che si tratta sempre di un appunto dell'iceberg. Poi è un'evasione che immagino sia fatta dalle grandi evasioni, le società, società in genere, insomma, i grossi evasori, ma può essere composta anche magari da piccole evasioni. Guarda, i dati sono così suddivisi. Praticamente sono stati denunciati 11.769 responsabili di frodi e reati fiscali, di cui ci sono 5.836 violazioni per fatture false, evasione per l'IVA 519 euro, poi di che ci sono molte persone che hanno omesso di presentare la dichiarazione dei redditi e parliamo di 2.579 violazioni, o per aver distrutto, occultato addirittura la contabilità, sono 2.220 casi. Questi sono tutti casi di cui il fisco non ha ricevuto un centesimo. Mentre sul versante dei lavoratori, ci sono stati 16.233 persone scoperte a lavorare completamente in nero, di cui 13.837 addirittura risultavano irregolari, mentre 6.665 erano impiegati da datori di lavoro. E di questi il risultato che l'introito che il fisco non ha potuto beneficiare quindi dai versamenti è equivalso a 6,2 miliardi di euro. Ecco, insomma, numeri significativi, poi certe cifre, quando si parla parlare di milioni di euro è una cifra esorbitante per la maggior parte dei comuni mortali, miliardi figuriamoci, ancora di più. Gli scontrini fiscali che poi toccano la gente comune, mi pare di aver letto che più o meno uno su tre era irregolare. Sì, scontrini fiscali, come detto, è un tema che tocca un po' tutti, perché è quello che noi come associazione dei consumatori invitiamo sempre i consumatori a farselo rilasciare quando si va al bar a bere un caffè o quando si fa qualsiasi genere di acquisto. È risultato che dai 440.000 controlli effettuati negli esercizi commerciali, il 32% degli scontrini è risultato irregolare o addirittura non è stato assolutamente neanche rilasciato, e anche qui possiamo renderci conto che il 32%, come ha detto uno su tre, è un dato veramente molto rilevante, e questo dovrebbe indurci tutti quanti a incentivare le persone a una maggiore cultura dello scontrino al fine di poter tutti quanti dare un contributo a quella che è l'evasione, alla lotta alla lotta all'evasione, appunto. Sì, questo parte evidentemente anche da noi clienti, cioè come abbiamo detto anche altre volte, magari ci fa comodo spendere qualcosa in meno quando si tratta di una fattura, di un intervento professionale. Lo scontrino alla fine, la quota intera la si paga lo stesso, però è bene farselo potrebbero rilasciare, perché tutto deve essere documentato per reciproca, credo, per reciproca tutela. Sì, guarda Mirko, mi rincresce che poco tempo fa, su una precedente puntata, avevamo parlato di come il governo stava studiando la possibilità di detrarre i scontrini fiscali in occasione della dichiarazione dei redditi. Era una proposta che avevano avanzato, di cui si stava studiando la fattibilità come seria lotta di contrasto. Poi, come tutte le buone proposte, vanno sempre in dimenticatoio, e adesso dobbiamo assistere a quelli che sono un po' i slogan alla vigilia di molti politici delle campagne elettorali come è in corso. Però sta di fatto che, se da una parte noi esponiamo tutti a dover chiedere scontrino proprio perché, come hai detto tu e come sosteniamo anche noi, questo dà un aiuto a pagare tutte le tasse e quindi spera di pagare meno, dall'altra dobbiamo renderci conto che in un momento di forte crisi e di forte tassazione, come i governi in questo ultimo periodo stanno perpetuando nei confronti delle famiglie, certamente la possibilità di risparmiare inducono molti anche noi chiederlo. Eh sì, purtroppo è tendenza dei tempi. Allora, dati preoccupanti, noi ci impegniamo a tenere viva anche la coscienza, anche con questi nostri interventi, la coscienza civile proprio su questi comportamenti. Ringraziamo l'Adico, appuntamento la settimana prossima con altri due argomenti. Grazie a te Mirko, un saluto a tutti. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.